con prete. Ho messo a dura prova la mia fede. Una settimana col prete. Ho messo a dura prova la mia fede. Una settimana col prete. Ho messo a dura prova la mia fede. Cercando Dio tra le montagne, abbandonando tutte le speranze. Cercando Dio tra le montagne, abbandonando tutte le speranze. Avete capito? È colpa vostra.